avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Io so che molti appassionati questa mattina gioiranno e quindi attendo con ansia il loro fortunato contributo. Questa mattina riprendo il discorso sulla banda La Magliana. Ne parlammo già un anno fa e ricordo che scoprii che attorno a questo gruppo di persone che rappresentano un episodio di cronaca significativo del nostro paese, su cui ancora si sta studiando, su cui cui strascichi legati a un'infinità di altre situazioni di ordine politico, di ordine ecclesiastico, di ordine misterioso sono inestricabili e ancora danno grande apprensione e grande senso di interesse. Ma la novità è che rispetto alla banda La Magliana è stata presentata grande evidenza la seconda serie del telefilm tratto appunto dal romanzo di Giancarlo Le Cataldo, romanzo criminale, da cui è poi venuto un film, è venuta una serie televisiva cult e sono stati presentati proprio l'altro giorno i 10 episodi della seconda serie. È interessante come operazione vedere quanto rispetto a tanti altri episodi, a tante altre circostanze, a tanti altri personaggi legati al crimine, la banda La Magliana sempre più sta diventando qualcosa che fortemente è entrato nell'immaginario. È un po' come il rapporto tra storia e epica. Da una base concreta di fatti storici oggettivamente rilevati, di cui ci sono testimonianze, c'è qualcosa di effettivamente e in maniera incontrovertibile accaduto. Poi improvvisamente un po' la fantasia popolare, un po' per certi inspiegabili meccanismi che si attaccano, si affezionano a certi personaggi, la banda La Magliana è entrata nell'immaginario. È ormai già qualcos'altro rispetto a quello che realmente è stato, quello che ancora realmente è necessario capire sulla sua effettiva presenza, operatività e a vari livelli possibilità di aver agito e interagito anche con parti insospettabili del potere politico del nostro paese. Beh, questa mattina cercheremo di rifare un punto sulla banda La Magliana, quindi so che ci sono degli appassionati maglianologhi in tutta Italia. Il numero è 800240024. Dimmi una cosa, prego. Perché sei rimasto? Che? Niente niente, proprio al posto del libanese. Io non voglio un cazzo. Soprattutto perché il posto del libanese non lo può più a nessuno. Beh, c'è qualcuno che ne pensa come te. E se lo vuoi sapere, sto qualcuno il posto l'ha offerto prima a me. Che cazzo stai? Mi hanno chiesto di sdraiare al Libano. E di guidare sta baracca. Chi? Amici tuoi. Sergio Ruggero Buffoni. Che guarda caso sono i primi che hanno sceso i fari sui gemiti. Quando arrivo? Mi è piaciuto un dubbio. Siamo tanto un giro a sbattersi per capire chi è ammasso dal libanese. Se fosse stato uno della banda a tirare il letto. 800240024, avete sentito una piccola tranche di quella che è la nuova serie che sarà trasmessa sui canali Sky di Romanzo Criminale. Tutta imperniata, ho visto le prime due puntate sulla banda della Magliana che si muove per vendicare il libanese, il suo fondatore. La serie inizia con dei ragazzini che negli anni 70 cominciano a fare accoltellate, a sassate in un quartiere periferico di Roma, e da questa sorta di senso di violenza di strada, necessità di coalizzarsi per reagire alla violenza che circonda, nasce la banda La Magliana. Abbiamo in studio Angela Camuso. Angela Camuso, buongiorno. Buongiorno. Fu ospite nostra l'anno scorso, è una giornalista, autrice di Mai ci fu pietà, la banda La Magliana, e dal 77 oggi, editori riuniti, che è la giornalista che ha maggiormente raccolto testimonianze concrete, reali, e segue i fili della narrazione del concreto attorno alla banda della Magliana. Tu, Angela, che sei la maglianologa reale effettiva, poi sentiremo la la deriva letteraria e poetica della banda Magliana. Puoi farmi un punto sull'attualità rispetto all'ultima volta che ci siamo visti? Cosa è accaduto di nuovo che riguarda la banda Magliana? Perché gli addentellati sono infiniti e l'aspetto misterioso poi sembrerebbe altro che istigare la voglia di crearci romanzo attorno. Cosa c'è non di romanzesco ma di reale di nuovo? Sì, volevo fare una premessa. Io ho scritto questo libro raccogliendo più che le testimonianze gli atti di istruttoria, quindi gli unici documenti oggettivi i documenti che giudiziari. E attraverso questi documenti ho ricostruito la storia della banda della Magliana anche dal di dentro, perché appunto ci sono fortunatamente decine e decine di anzi centinaia di dichiarazioni di pentiti della banda della Magliana che raccontano sia come hanno commesso i delitti sia poi qual è stata la dinamica interna in questo stralcio che è stato trasmesso. Si intravede appunto i prodromi della faida, no? Sanguinosa, che poi autodistrusse la banda della Magliana. Per quanto riguarda l'attualità, di nuovo in realtà io nel libro appunto avevo già tracciato un quadro sull'attualità raccontando un po' qual era la banda della Magliana, qual è la banda della Magliana oggi, cioè chi, i reduci della banda della Magliana, chi sono, cosa fanno, come si muovono, anche ragionando su una serie di omicidi che ci sono stati nella capitale negli ultimi 10 anni. Negli ultimi mesi indagini diverse della Procura di Roma, soprattutto parliamo dell'indagine su Emanuela Orlandi, ma quella che appassiona più tutti. Esatto, ma parliamo anche di altre indagini che hanno fatto tornare alla ribalta incredibilmente personaggi che si credevano ormai dimenticati. Ecco, queste indagini dimostrano sostanzialmente che la banda della Magliana non è morta. Partiamo dal sequestro di Emanuela Orlandi. Come è noto, la principale testimone, quella che ha fatto riaprire il caso, è l'ex amante di Enrico De Pedis, quello che viene rappresentato come il dandy nel romanzo criminale, sì. Anche se poi la storia del dandy non è la storia di De Pedis, perché poi ci sono state molte contaminazioni letterarie. Ecco, ma quello abbiamo detto che a un certo punto la storia della banda Magliana non appartiene più soltanto a chi ne racconta gli aspetti giudiziari, gli aspetti concreti, ma appartiene all'umanità che su questa vuole, poi ognuno sogna la maniera sua, e creare degli spazi di letteratura. E questo è accaduto naturalmente. Sì, perché comunque la banda della Magliana si è prestata a questo lavoro, perché comunque è stata una realtà criminale assolutamente singolare, perché comunque la criminalità romana è una criminalità che non si può paragonare, che ne so, alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, però non è stata neanche una criminalità di bulli di periferia. Voglio dire, quelli della Magliana a 14 anni andavano a rapinare nei negozi, a 18 anni giravano in Ferrari, non erano le baby gang di oggi che vanno a rapinare il ragazzino del giubbotto. Ritornando all'Orlandi, cosa c'è di nuovo? Allora, innanzitutto come è noto, 3 indagati, almeno questi sono i 3 nomi noti. Poi è probabile che ce ne siano altri di indagati, ma noi non abbiamo contezza di questo. E questi 3 indagati per il sequestro di Emanuela Orlandi sono l'ex autista di Enrico De Pedis, che si chiama che è stato identificato dalla Procura di Roma come Sergio Virtù, e poi ci sono altri 2 malavitosi che ruotavano sempre intorno al gruppo dei testaccini di De Pedis. E questo è un fatto molto importante, ma soprattutto io ritengo che sia fondamentale l'identificazione del famoso telefonista Mario, colui che chiamò casa Orlandi a qualche giorno dalla scomparsa facendo un depistaggio, facendo credere che la ragazza era andata via volontariamente. Ecco, questo telefonista, da una perizia fonica collegiale, è risultato essere una persona molto vicina a De Pedis, uno che prima che De Pedis morisse era uno dei pochissimi a conoscere il suo indirizzo di casa. Fermiamoci un attimo, Angela. Tu stai raccontando il filo concreto, l'attualità più recente, ciò che tiene più in ansia gli appassionati di tutto il filone legato alla banda Magliana, che è il famoso scoperchiamento della tomba di De Pedis per sapere se dentro ci potrebbe casomai essere, ma tu sei molto scettica, il cadavere di Emanuela Orlandi. Come vedi, la realtà poi subito tracima immediatamente la fiction. Però abbiamo al telefono Giancarlo De Cataldo. De Cataldo, buongiorno. Buongiorno. Ho voluto farle ascoltare un attimo la collega che raccontava ciò che appartiene comunque almeno agli atti e documenti sulla banda Magliana, ma oggi celebriamo anche la fortunata riedizione dell'aspetto romanzesco. Allora, De Cataldo è giudice della Corte d'Assise di Roma, quindi anche lui ha avuto molto alle mani in pasta su quelli che sono i documenti. Si rende conto che lei ha affidato però alla realtà romanzesca un filone fantastico che ormai cammina per la sua strada. Assolutamente. Da un certo punto in avanti la realtà smette di essere interessante e ci si consegna ai meccanismi dell'invenzione, perché spesso l'invenzione è, come dire, più prossima alla realtà della realtà stessa, nel senso che le sceneggiature quasi mai mentono, tendono a riprodurre i meccanismi di comportamento umano, le dinamiche del potere, le passioni, per come sono realmente. Poi nella realtà invece i protagonisti delle storie si mascherano, si nascondono, perché hanno qualcosa da difendere. Quali sono i punti di collisione concreta fra, diciamo, la fiction, soprattutto queste ultime 10 puntate che vedremo, e la realtà, se è possibile, solo per dare dei brevi cenni, cioè il libanese chi era nella realtà, a chi assomiglia? I modelli sono molto mescolati, i modelli sono estremamente mescolati perché erano tanti e insomma non puoi raccontare, anche se stai scrivendo una storia corale, non puoi raccontare in mille, devi prendere qualche esempio, qualche personaggio emblematico, costruirgli un'identità, intorno a questa identità seminare i fatti. Quindi una diaspora romanzesca c'è stata e si è disseminata. No. E, appunto, se andiamo ai meccanismi reali, dopo la morte del primo capo della banda ci fu una vendetta, furono individuati i presunti o reali responsabili, si scatenò una caccia all'uomo. Nello stesso tempo le due anime sostanzialmente antagoniste della banda, quella, diciamo, che veniva più da Roma Centro e quella che veniva più dalla periferia, presero strade diverse. In sostanza i più abili e spregiudicati cominciarono a investire nel ramo imprenditoriale, ad arricchirsi, a stringere legami con settori anche dell'economia palese, riciclatori di denaro, ma anche servizi segreti, anche logge massoniche deviate. Nella fiction c'è questa certezza: il poliziotto nemico giurato a banda Magliana sa che a un certo punto loro hanno anche contatti con servizi deviati. Sì, ma questo è successo davvero? Ma certo che è successo, ma succede ogni volta che qualche struttura ufficiale deve fare il lavoro sporco. Allora chi ti affidi? Ti affidi a chi ha il controllo della strada. È un'antica dinamica di potere. La parola sicario è stata inventata in Italia e designa degli assassini collegati a uomini potenti che non possono comparire, ma che, come diceva il famoso Quentin Tarantino, risolvono problemi, tra virgolette. E questo in parte è accaduto. Sentiamo un attimo l'ascoltatore Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dottor Giannino. Sì, dottor Giannino ha già preso l'aereo per Milano. Ah, ecco, ho visto. Ho visto. Dottor, come va la vita? Allora, dica, qual è la domanda? Sì, volevo capire, per quanto riguarda il sequestro dell'Orlandi, tempo fa, nella trasmissione di Chi l'ha visto, ci fu un telefonista anonimo che disse che il mistero andava ricercato appunto nella tomba dove c'è De Petis. Ecco, perché non si va a controllare? Quali sono gli ostacoli? Ecco, grazie Antonio la domanda. Come vedete, Cataldo, alla fine anche l'aspetto concreto, l'aspetto reale, ormai ha delle derive fantastiche talmente forti. Adesso tutto la complessità della banda La Magliana, che è stata così complessa e così forte da terminare anche un fortunato filone romanzesco, è raccolta una domanda, e chi l'ha visto diventa la fonte ufficiale di certezza ormai tutto ciò che è legato all'Italia dei delitti. Cosa ci sarà dietro quella pietra tombale? Angela Camuso, dimmi la tua versione oppure il tuo punto di vista, visto che questa è la grande domanda, me l'aspettavo, l'abbiamo subito messa. No, diciamo punti di vista non mi permetto permetto, io cerco di, diciamo, di parlare dei fatti oggettivi. Allora, questa telefonata è molto importante, è stata molto importante ed è stata presa in grande considerazione dagli investigatori. Ed è una telefonata in cui questa persona, un giovane, dice: se volete scoprire il mistero di Emanuele Orlandi, andate a vedere chi è seppellito in Santa Pollinare e il favore che fece De Pedis al cardinale Ugo Poletti. Che già è strana in sé la cosa, questo, che un cardinale metta un bieco assassino, per quanto pentito, come un santo dentro una chiesa. Ma pentito De Pedis, che non ci sono tracce che si sia mai pentito. Sì, ma sarà confessato, sarà, sì, aveva santi, rapporti, no? con i sacerdoti nel segreto del confessionale, anche se voglio dire ci sono dei sacerdoti che insomma che avevano rapporti con quelli della Magliana, che poi sono stati inquisiti perché, e poi anche se prosciolti perché accusati di essere quelli che portavano cocaina, oggetti proibiti. De Cataldo, lei nella sua vena romanzesca, il suo aspetto di prete inquinati lo ha toccato, lo ha interessato oppure lo ha tralasciato? La storia vera della sepoltura nella Basilica era già emersa alla fine degli anni 80, inizi anni 90, cioè nel corso delle indagini per poi quello che sarebbe stato il maxi processo, si era già realizzata una piuttosto imbarazzata presa di posizione del cardinal Tonini, ricordo un'intervista al Corriere della Sera del 97-98. Ce n'è una traccia nel romanzo criminale, ma non è così, diciamo, legata a un mistero, è piuttosto legata a una aspirazione individuale che è molto diffusa in fenomeni di grande banditismo, di grande gangsterismo. È un po' lo stesso discorso per il quale molti boss mafiosi o della Camorra sono estremamente devoti, non so, a Padre Pio, alla Madonna, certo, certo, e così via. O si fanno tatuare addosso assieme, sì, appunto. Sì, no, cioè, come dire, un autentico sentimento religioso che evidentemente per loro convive senza problemi con il killeraggio, il riciclaggio, il traffico di droga e via dicendo. Tutto anche il cartello dello spaccio della cocaina nei paesi del centro Sud America hanno tutta una loro, certo, hanno addirittura dei loro santi, dei loro culti, le loro liturgie. Angela, secondo te quanto è affidabile la Minardi rispetto a quello che stiamo dicendo? Perché in realtà vedo che l'immaginario popolare che si alimenta dei programmi televisivi paragiornalistici, questo è il punto che vuole sapere, vuole capire cosa c'è lì dietro. Ma la Minardi è ritenuta dalla procura, diciamo, affidabile, nella misura in cui sono affidabili poi persone come lei, ma anche come gli stessi pentiti, che comunque hanno avuto, diciamo così, una vita contaminata dal crimine. Poi lei, voglio dire, anche ha avuto dei trascorsi, insomma, di abusi di alcol, di droga, eccetera. È probabile che lei dica alcune cose vere, poi anche in mezzo a delle cose vere, delle cose false, però questo non, le cose false non vogliono dire che tutto quello che dica sia completamente falso, ma soprattutto lei ha dipinto un quadro che in realtà sta avvenendo, cioè sta trovando delle conferme all'esterno. Ecco, ritornando al telefonista, perché così rispondiamo anche all'ascoltatore, quello che fece poi questa famosa telefonata non era uno qualunque, è stato identificato ed era, guarda caso, il figlio di questo storico collaboratore di De Pedis, che invece era stato il telefonista dell'83 che chiamò Casa Orlandi. E questo non è una cosa da poco, perché significa innanzitutto che oggi c'è qualcuno che ha interesse a che venga fuori la realtà e a mettersi anche contro, probabilmente, la famiglia De Pedis. Quindi questo fa capire anche che attualmente dentro la banda della Magliana c'è qualcosa che si muove. Ma tu parli di banda Magliana come se ancora fosse una realtà concreta esistente. Ma io, diciamo così, nel senso lato, la banda della Magliana non è morta, cioè sono morti i De Pedis, sono morti, è morta Bruciati, è morto Giuseppucci, che poi sarebbe questo famoso libanese, molti sono andati in galera, ma la banda della Magliana intesa come una criminalità romana organizzata che ha rapporti con l'Andrangheta, con la mafia, con la Camorra, che continua a gestire nella capitale gioco d'azzardo, che continua a fare affari, che continua a commerciare droga, a reinvestire, a controllare le attività commerciali. Esiste e spara. De Cataldo, lei è d'accordo sul fatto che ancora qualcuno abbia in sé il DNA o l'eredità della banda della Magliana e come tale si consideri? Ma questo si potrebbe dire, come dire, che esistano gruppi criminali organizzati, si potrebbe dire di qualunque città media o grande. Però che italiana. Si rifacciano, cioè noi siamo gli eredi della banda La Magliana, si sentano ciò che resta. Guardi, l'anomalia del fenomeno era il controllo assoluto del territorio in una realtà non mafiosa con metodi mafiosi. Oggi la realtà è di una estrema parcellizzazione, magari di accordi di cartello, ma si stenta a capire un soggetto emergente che tenga tutto insieme, come accadeva. Manca il carisma che avevano allora quelli che lei chiama il libanese e via dicendo. Ecco, manca assolutamente sì, anche da un certo punto di vista, diciamo, interno alle logiche criminali, una sorta di codice. Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. Sì, sì, no, perché sono sotto un arco, sì. Io sono in movimento. Una sorta di codice, per intenderci, qualche tempo fa a Roma si è commesso un omicidio motivato dal sospetto di un complice sulla spartizione del bottino di una rapina. Il sospetto è bastato ad eliminare il presunto autore del furto del bottino. Quindi ancora, diciamo, a Roma si ammazza per un non nulla, quindi la violenza e la realtà criminale esiste, ma come dice De Cataldo manca il personaggio carismatico che faccia di questo un evento storicamente registrabile, che possa poi far scaturire una vena romanzesca così felice. Grazie De Cataldo, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sapete che la polizia si è bevuta il bavoso al bar di Dormanancia? Il nome del cazzo si porta presso una vita del cazzo. Per questo che noi il nome lo sapremo scegliere da soli. A me, per esempio, mi piacerebbe Grana. Grana. Per via dei sordi, questo è il primo pensiero mio quando mi sveglio. I sordi. A me chiamatemi Ursula Andres, è il primo pensiero mio, certezza indecia. Ma tu non ti chiami già Dandy? Sì, da grande voglio essere come Fred Astaire, il frac pure a colazione. Si dice così, no? Un Dandy. Oh, ma che cazzo ne so solo che io mi voglio chiamare libanese, come sto spino. Perché il sogno mio sarebbe di fumare sempre e non vedo schifo che c'è intorno. Tu che nome vorresti? Freddo. Perché Freddo? Cazzi mia. Ma che è il nome Freddo? Perché è un nome Dandy. Oh, la polizia! Scappiamo, scappiamo! Aspettatemi! Ecco come nasce, perlomeno nella fiction televisiva, che sarà trasmessa nella seconda serie da Sky, tratta dal romanzo di De Cataldo, di Giancarlo De Cataldo, il nucleo organizzativo iniziale della banda La Magliana. Giovani borgatari, ragazzini borgatari romani che passano attraverso tutti i beni di consumo voluttuari più raggiungibili, donne fantastiche, meravigliose, il fumo, la droga, i soldi, sì, cominciano a creare i loro nomi da supereroi, iniziano con piccole azioni di malavita infantile son di sassate e coltellate, diventeranno una delle realtà più potenti che caratterizzerà anche l'area romana e limitrofa come una scaturigine di una grande malavita organizzata, se anche non arriva ai fasti narrativi che ha avuto nei tempi, nella letteratura, nel cinema, nella fiction televisiva, la camorra oggi in grande spolvero, la mafia un po' meno trattata. La banda La Magliana è talmente evidente nell'immaginario che da lì è nato un filone fantastico in cui i personaggi ormai vivono di vita propria, di vita totalmente autonoma. È interessante, ho io qua in studio Angela Camuso, che è autrice di Mai ci fu pietà, La banda La Magliana dal 77 oggi di Torri Uniti, che è la giornalista che con cura certosina e con passione mette insieme tutti gli atti giudiziari, tutto ciò che viene oggettivamente registrato sulla storia concreta, la banda Magliana, e è la memoria storica sulla realtà della banda della Magliana. Poi abbiamo sentito Giancarlo De Cataldo, ci ha raccontato come i personaggi prendono la loro strada. Angela, tu conosci anche la realtà romana, cosa dici questa caratteristica del quattume romano che ha varie e fantastiche derive, dalle ragazzine con il calippo che hanno imperversato quest'estate una sorta di coatte doppiate addirittura, che sono diventate una sorta di divertente metafora di ciò che non è invece la Roma radical chic delle terrazze, I quattro cattivi veri della banda La Magliana, che sono così cattivi e così veri da essere diventati finti, quindi personaggi di fiction. Beh sì, comunque il fatto che la banda della Maiana sia nata a Roma non è secondario, cioè anzi è assolutamente, fa parte del DNA, perché poi la banda della Maiana in realtà nasce dall'unione di, diciamo, dei leader delle varie cosiddette batterie, perché negli anni 70 a Roma esistevano le batterie, che erano dei gruppi di rapinatori sostanzialmente. C'era chi faceva soprattutto rapine, chi faceva soprattutto, che ne so, per esempio rapine in negozi, piuttosto che rapine ai portavalori, oppure cominciavano a trafficare la droga. Erano, insomma, ognuno era un po' specializzato in qualcosa. Si cimentavano in carcere questi rapporti e poi uscivano fuori. Sì, si cimentavano in carcere, semplicemente, insomma, c'erano dei posti dove si vedevano. Per esempio c'era l'Alberone, dove ci si incontrava, c'erano i vari malavitosi delle varie batterie che si incontravano e magari si progettava di fare qualcosa insieme, tant'è che la banda della Maiana nasce proprio perché per un fatto quasi banale, nel senso che c'era proprio Giuseppucci, che poi sarebbe questo libanese eccetera, che un giorno si dimentica, cioè parcheggia la macchina proprio sulla Appia Nuova, davanti, insomma, più o meno dove è adesso il cinema, e lascia questa macchina con le chiavi inserite, e praticamente gli rubano questa macchina, e dentro il portabagagli lo aveva un arsenale di armi. E praticamente si scopre poi che chi gliel'aveva rubato era uno di un'altra batteria. Allora, insomma, Giuseppucci, che insomma era uno conosciuto, non ci mette molto a capire chi era stato colui che aveva rubato le armi, e chiaramente, insomma, le armi gli vengono restituite, e in questo modo sostanzialmente si cementa un'alleanza, perché comunque lui viene riconosciuto come capo. Nello stesso si tempo guadagna la leadership sul campo, esatto. E per esempio lo stesso De Pedis era nativo di Trastevere, e lui, diciamo, da giovanissimo a un certo punto diventa il punto di riferimento, diventa il leader, lui insieme ad Abbruciati, che poi sarà invece l'uomo che va più contatti con la Sicilia, con la mafia. Lui andava a casa di Pippo Calò, insomma, a Palermo, e quindi, insomma, la banda della Maiana nasce così. Per esempio l'amica fraterna di De Pedis, che poi sarà la donna proprio più importante della banda, Fabiola Moretti, anche lei era di Trastevere, e lei e De Pedis giocavano insieme da ragazzini, andavano al Gianicolo a cacciare le vipere per poi ricavarne il siero salvavita, che vendevano al farmacista sotto casa, che li pagava chiaramente, insomma, sotto banco. Ecco, così cacciatori nasce di serpenti. Esatto, così nasce, insomma. Senti, ma il rapporto invece con la malavita organizzata, che forse era meno presente a Roma in quegli anni, nella fiction, cioè, sono personaggi come Zio Carlo, il vecchio, mafiosi siciliani che chiedono favori, hanno rapporti anche conflittuali, e al tempo la banda della Maiana realmente era riuscita anche a pestare i piedi, a metterseli sotto, questi personaggi legati a organizzazioni belle potenti. Ma io direi, dunque, metterseli sotto no, c'erano dei patti. La banda della Maiana chiaramente non è che si era messa sotto, voglio dire, boss del calibro di Pippo Calò, ma semplicemente faceva affari con loro, e comunque la banda della Maiana era considerata ed era rispettata, diciamo, a suo modo, perché comunque rappresentava una fonte di guadagno da una parte, e poi rappresentava mano d'opera per commettere omicidi. La mafia commissiona omicidi alla banda della Maiana, la mafia procura la droga all'ingrosso alla banda della Maiana, e poi fa affari con la banda della Maiana, investe con la banda della Maiana, c'è tutto il filone, appunto, degli investimenti su cui, appunto, si erano poi specializzati i testaccini di De Pedis, che esiste proprio in quanto esiste l'alleanza con la mafia siciliana. E questo si sa bene: quando uno ha molti soldi da investire si trovano anche molti alleati che non necessariamente appartengono al girone oscuro dei malavitosi. Quando cominciano a girare soldi, si fanno investimenti, diventano tutti complici, ma con la coscienza perlomeno pulita. Dai, andiamo. Che ti fa? Tu, devo pure spiegare. Ma non l'hai sentito che ha detto Alfredo? Niente sangue finché non siamo sicuri. E a me da quello che dice Alfredo non me ne frega un cazzo. Ho vendicato il libanese o no? Non è così che ci hanno detto di fare. Ho capito. Andiamo, scrivo. No. Mi dispiace, entra sta cosa, non ce l'ho dietro. C'è problema, faccio la sua. Nella fiction della seconda serie di Romanzo Criminale ci sono delle tensioni all'interno della banda. Morto il libanese, nessuno gestisce più le forze più ruente. Nella Vendetta e il libanese in realtà si fanno un sacco di stupidaggini, si ammazzano gente che non c'entra niente, ci si rovina l'alleanza, insomma la banda comincia a esplodere. Sentiamo Franco, l'ascoltatore. Franco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Guardi, mi sono sempre chiesto in tutti questi anni, da quando appunto questi giovani sono assurti agli onori della cronaca, quali meriti particolari, spirituali, morali, no, potesse avere un certo De Petis per essere sepolto in una chiesa, insomma. E mi sono risposto, ovviamente non ci credo neanche, però visto che siamo tra la fantasia e la realtà, e lì c'è uno scrittore di livello come De Cataldo, non so se i suoi ospiti possono darmi una risposta in questo senso. Non ci potrebbe essere una qualche correlazione con un sindacato polacco, Solidarnosc, che allora in qualche modo contribuì pesantemente, sì, sui giornali è stato scritto anche... a togliere un tassello da quello che allora era il male assoluto, quindi il comunismo con la sua nazione più rappresentativa, appunto, che metteva in atto, come dicevano loro, il socialismo reale, che era l'Unione Sovietica. Questa è una cosa dicono, ho capito, l'ha detta la domanda, l'ha detta, scusi, non è che la voglio, l'ha detto, ripete cose che ha già detto. Allora, la domanda all'ascoltatore è, a cui risponderà appunto Angela Camuso dopo le informazioni del traffico che devo dare, non è che, c'è uscito ovviamente sui giornali, in realtà la banda magliana avesse finanziato Solidarnosc, quindi in questo momento il pontificato di Papa Wojtyła, che era, puntava molto su questo sindacato per la demolizione del blocco dell'Est, abbia in qualche maniera poi compensato per questo De Petis e l'ha messo seppellito dentro una tomba. Rifletti un attimo, Angela, questa risposta, la sentiamo fra un istante, però, la tua risposta dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. 1300 da dividere. 100 milioni a testa, rimangono 100. Andiamo a sputtare a bische, mignotte e cocaina. Stavo pensando. Credo è giusto, eh. Ognuno c'ha le sfizie sua. Stecca parola per tutti. 50 milioni a testa. Quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti. C'èmo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh. Sta base ci serve per far che? Per piacere quello che se volemo piacere a tutti. Che se volemo piacere a tutti? Roma. Con Angela Camuso, autrice Non mai ci fu pietà, la banda magliana al 77, oggi stiamo cercando di stabilire un filo di connessione, o perlomeno di saggiare l'emotività del nostro pubblico, sul fenomeno banda della Magliana. La banda della Magliana, una realtà molto articolata e ancora molto confusa nei suoi margini di estensione, nella storia del nostro paese, soprattutto nella fattispecie romana, anni 70, 80 e 90, ancora fa parlare di sé, per un duplice motivo, perché è nato un filone da De Cataldo in poi di fortunatissima fiction. Ormai la banda della Magliana esiste al di là della sua esistenza reale e storica in personaggi che si animano di vita propria, e un filone di indagini che ancora appassionano. Ci siamo sospesi con la domanda del nostro ascoltatore prima appunto della pausa per il traffico. La banda della Magliana provocò la caduta del comunismo e per questo fu gratificato De Petis e seppellito dentro Santa Pollinare. Angela Camuso. Sì, peraltro questa è un'ipotesi che fu fatta tempo fa dal giudice Rosario Priore, che è stato quello che ha indagato sull'attentato a Wojtyła. Lui appunto insomma la presentò come uno scenario possibile. Il dato oggettivo è questo: i rapporti finanziari, voglio dire oscuri, tra la banda della Magliana e il Vaticano sono di fatto materia delle indagini sul sequestro di Emanuele Orlandi. Su questo stanno indagando, infatti. È questo il fulcro della questione, e chiaramente all'interno c'è tutto quanto il mistero legato alla sepoltura di De Petis, perché è evidente che se De Petis è stato seppellito lì ci sarà stato un motivo, che non era certo il fatto che lui fosse un benefattore e un educatore dei giovani, come è stato scritto nella lettera che lo ha raccomandato presso il presidente della CEI. C'è un fatto però obiettivo inconfutabile, cioè la banda della Magliana investì i propri soldi, come lo fece anche la mafia siciliana, nel Banco Ambrosiano di Roberto Carli. Pecunia non olet, quindi ed è un fatto storico accertato anche che Roberto Calvi ha avuto rapporti spericolati con Monsignor Marcinkus, l'arcivescovo allora presidente della banca, della Banca Vaticana. Di cui si parla anche per diciamo, le indiscrezioni ultime attorno a Manuel Orlandi, alla fine il circolo si richiude. Quindi a questo punto, chiaramente poi sarà quasi impossibile, sarà difficile capire, cioè riuscire a fare a ritroso il percorso di quei soldi, però voglio dire che dei soldi sporchi siano finiti dentro le casse della Banca Vaticana, questo voglio dire è un dato, diciamo così, assolutamente voglio dire verosimile. Ora, capire in che modo, in che misura questi affari abbiano poi potuto provocare la decisione di rapire una ragazzina come Manuela Orlandi, che era una cittadina vaticana, che era figlia del possino personale di Papa Wojtyła, perché lei e non altri c'erano dei motivi economici, bisognava fare delle pressioni sul Vaticano, come raccontano alcuni pentiti, oppure c'erano anche dei motivi di tipo sessuale, come racconta la Minardi. Ecco, festini fra altri prelati e ragazzine, cose del genere. Cioè, la questione sessuale in realtà è la questione poi che ingarbuglia un po' tutto il quadro, perché poi è una cosa che riferisce soltanto la Minardi, almeno a quello che noi sappiamo. Che non giustifica nemmeno poi l'omicidio con tutto questo contorno. Che in realtà non si capisce bene che connessione ci può essere tra, voglio dire, rapire una ragazzina per fare una pressione ai vertici dello IOR e poi il fatto che questa ragazzina sia oggetto di attenzioni sessuali. Ma ripeto, è possibile voglio dire, Sabrina Minardi abbia raccontato delle verità e che poi in mezzo a queste verità abbia raccontato anche delle non verità, chissà, anche per paura, per paura di poter essere poi voglio dire oggetta di rappresaglie. Ecco, questi sono poi i misteri della mente umana. Sentiamo Francesco, buongiorno. Buongiorno caro Gianluca. Io trovo che questo interesse per la banda della Magliana sia un po' sopra le righe. Forse attiene alla c'è un fatto commerciale, fanno una fiction che funziona, sì. E quindi attiene un po' a quella nostalgia per il poliziottesco che serpeggia sempre, che a me tra l'altro piaceva anche, e che serpeggia sempre nella nostra industria cinematografica. Finché c'è un pubblico che l'apprezza, secondo me chi produce fa bene a produrre prodotti di successo. Però vedi, il fatto che la mafia commissionasse delitti alla banda della Magliana, per me è la dimostrazione della superiorità della mafia stessa nei suoi confronti, che io commissiono un delitto a uno che mi è inferiore. Quindi questi più che altro, più che ordire trame, erano dei coatti esecutori, senza voler disminuire, per carità, perché erano dei delinquenti. Sì, ma nessuno mette in dubbio in una gerarchia del crimine, però, che prima c'è la mafia, poi c'è la camorra, poi c'è, adesso non so bene i pesi, non vorrei dire inesattezza, non è esattamente la mia materia, però visto che stiamo parlando di ricaduta romanzesca, di fatti criminali che entrano nell'immaginario e diventano fantastiche storie, dopo un fortunatissimo filone di film, di libri sulla mafia, dopo un'attuale rilettura della camorra anche in chiave letteraria, romanzesca, filmica, che è un po' ha saturato e nulla a che fare con la realtà, io sto parlando semplicemente di lettura romanzesca, che il filone coatto romanesco stia prendendo piede come un altro sottofilone del grande filone, questo è un dato oggettivo. Che poi la banda Magliana fosse inferiore alla mafia, questo ce lo conferma anche Angela Camuso, però sul territorio romano ha fatto operazioni intelligenti di sempre fra virgolette, nell'ambito di una mentalità criminale, di gestione del territorio, fu imprenditoriale rispetto alle batterie di cui parlava la mia collega, che prima gestivano il territorio in maniera un po' disordinata, come bande impazzite, molte volte in conflitto con loro stabilirono una rete concreta e reale basata sul carisma di chi la gestiva, carisma conquistato naturalmente ammazzando in maniera spietata. Angela, sei d'accordo? Beh sì, non a caso voglio dire, la mafia siciliana ha una storia pluricentenaria, la banda della Magliana è durata 30 anni tra da quando è nata a quando, insomma, a tutti gli strascichi. Quindi è chiaro che, voglio dire, non c'è la solidità, non c'è, diciamo così, l'organizzazione verticistica che aveva e che ha la mafia, e non a caso si sono autodistrutti, si sono ammazzati tra di loro, si sono pentiti. Quindi, voglio dire, è chiaro che non stiamo parlando di un'organizzazione. Però la capacità di Caremito, la banda Lamagliana, ce l'ha avuta assolutamente, perché sennò non staremmo qui a parlare ancora di fiction sulla banda Lamagliana. Grazie Angela Camuso, grazie a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.